la versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo giovedì 16 luglio sono le 16.31 primi 47 secondi in diretta dagli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo per proporre temi o voi come ospiti in trasmissione, la versione di Oscar @radio24.it. E andiamo subito all'appello a voi ascoltatori per farvi telefonare se siete interessati e volete dire la vostra sul tema di giornata. Il tema di giornata è quello che sta avvenendo, uno sconquasso nella politica siciliana, con l'autosospensione di Crocetta. In realtà Crocetta è secondo me politicamente finito, per quello che è avvenuto, e la domanda che vi faccio è: giusto farla finita con l'esperienza della giunta Crocetta? Adesso vi ricapitolerò che cosa è avvenuto. È giusto che quindi vada a casa? Il PD ha già chiesto che si dimetta e che ci siano elezioni, lo ha fatto il sottosegretario Davide Faraone, il sottosegretario alla pubblica istruzione e la vicesegretaria nazionale Deborah Serracchiani. Diteci se pensate che sia giusto per la vicenda in sé, ma anche se è giusto che Crocetta vada a casa come un bilancio politico complessivo della sua giunta. Chiamateci all'800 24 0024 per le vostre opinioni, 349 238 6666. È ovvio che conta soprattutto se siete siciliani, perché lo subite sulla vostra pelle la condizione della politica e delle istituzioni in Sicilia, e nel day by day, seguendo giorno per giorno, avete un'opinione più radicata, qualunque essa sia, sia essa ancora a favore della giunta Crocetta, che nacque come una giunta di innovamento, di rinnovamento rispetto alle precedenti, Lombardo, Cuffaro e così via. Mesi fa ospitammo Pietrangelo Buttafuoco, che aveva scritto il suo penultimo libro, Buttanissima Sicilia, con cui argomentammo perché a nostro giudizio invece quella innovazione era un continuismo trasversale, al di là della simpatia iniziale che suscitò Crocetta con il suo coming out, però in realtà molto continuista, senza rottura di continuità con le trasversalità che purtroppo riguardano tutta la politica siciliana, con rarissime eccezioni. Non sto parlando ovviamente del Movimento 5 Stelle, ma per il resto anche pezzi del PD molto compromessi con il malgoverno pluridecennale. Dicemmo che a nostra opinione bisognava abolire lo scudo residuo dell'autonomia siciliana, che diventava nel tempo sempre di più uno scudo per continuare a distruggere risorse allegramente e ad alzare le tasse anche senza servizi all'altezza ai siciliani. Quindi diteci come la pensate. Che cosa è avvenuto oggi? Oggi è avvenuto che sono state lanciate delle intercettazioni, l'Espresso ha rivelato delle intercettazioni tra Tutino, il medico amico di Crocetta, primario dell'ospedale Villa Sofia a Palermo, chirurgo estetico, che è già stato arrestato perché scaricava sulla sanità pubblica siciliana e nazionale interventi che non erano previsti dai protocolli del Servizio Sanitario Nazionale. E prima dell'arresto il professor Tutino, parlando con Crocetta, presidente della Regione Sicilia, suo amico, gli dice a un certo punto, parlando dell'assessore alla sanità siciliana, la figlia del grande magistrato ucciso dalla mafia, Paolo Borsellino, cioè Lucia Borsellino, il dottor Tutino, il professor Tutino, dice a Crocetta: questa Lucia Borsellino dovrebbe fare la fine del padre, cioè andrebbe eliminata. E nell'intercettazione Crocetta resta muto a questa frase. Di fronte alla rivelazione dell'intercettazione monta l'immediata reazione, perché voi capite che è una giunta nata rispetto ai tempi di Lombardo e Cuffaro come una giunta nettamente antimafia. Nel frattempo si era già dimessa 10 giorni fa Lucia Borsellino, perché non sopportava più troppi segni incoerenti rispetto alla sua conduzione dell'assessorato e la vicenda di Tutino quindi l'aveva già molto segnata, a prescindere da questa intercettazione che ovviamente fa vomitare, si commenta da sola. Di fronte alle intercettazioni il PD immediatamente dice a Crocetta, che all'inizio tenta di difendersi dicendo: ma come si vede dalla telefonata, io non ho capito, non ho sentito, ero in un cono d'ombra, non deve aver funzionato in quel momento il telefono, per questo io non rispondo. Dopodiché dopo un'ora e mezza decide di dichiarare la propria autosospensione. Abbiamo anche un audio, quindi un'intervista a Repubblica, che pregherei di mandare in onda, in cui sentirete con le vostre orecchie la reazione di Crocetta alla collega di Repubblica che lo pesca al telefono. Mi sono autosospeso, spero che la procura accerti i fatti che si dica. Io non ne so veramente. Mi autosospendo perché non voglio dare la sensazione di essere legato al posto e perché mi sono abbastanza indignato di questa vicenda. Mi autosospendo perché non riesco a gestire questa sofferenza e voglio riflettere, perché sono un essere umano. Preferisco leccarmi le mie ferite e il mio dolore. Io non sono Cuffaro, che era legato al condannato e stava lì a gestire la regione siciliana. Io ho scelto una missione, questa missione, se è possibile portarla avanti, basta, se no, no, assolutamente. Lasciatemi nella mia sofferenza, nel mio dolore, in cui mi sento... Ecco, come avete sentito, Crocetta alla fine non ce la fa a trattenere le lacrime. Allora, la situazione è questa. Il PD che gli chiede immediatamente le dimissioni e il voto è lo stesso PD, ve lo dico per riflettere, anche secondo me il Presidente della Regione Sicilia non può restare dopo una cosa di questo genere, ma detto questo la delicatezza sta nel fatto che a chiedergli le immediate dimissioni e il voto è lo stesso PD che ieri, a proposito sempre di intercettazioni, in quel caso le intercettazioni tra il vicecomandante generale della Guardia di Finanza, generale Adinolfi, e il premier Renzi, per bocca del ministro Boschi, ha durissimamente criticato il rilascio di quelle intercettazioni, definendole illazioni e fantasy. Poiché io da liberale mi fa abbastanza schifo l'utilizzo delle intercettazioni a gogo nel nostro paese che finiscono sui giornali, però ho subito twittato ieri che non mi convinceva la tesi del PD. Perché voi capite che poiché da decenni assistiamo a questo fatto, governi la destra o governi la sinistra, che i generali al vertice delle guardie di finanza continuano a trescare con la politica e con i premier, la mia opinione è che comunque era un fatto politico molto rilevante, che da quelle intercettazioni, non penalmente rilevante ma politicamente rilevante, si capisse che ancora una volta anche con questo governo e con questo premier i vertici della Guardia di Finanza continuano a trascare con la politica. E c'è il vicecomandante generale della Guardia di Finanza che intrattiene rapporti amichevoli stretti con Renzi da quando comandava la Guardia di Finanza in Toscana, che sta da fare a telefono perché cambi il ministro dell'economia Saccomanni, che non gli piace e che ostacolava la sua nomina. Ecco, allora è lo stesso PD che ieri dice che le intercettazioni tra il vicecomandante generale della Guardia di Finanza e il premier non devono valere, anzi non dovevano essere pubblicate e così via, e che automaticamente dice a Crocetta, per una cosa grave, per carità, gravissima, che deve andare a casa. Anche questo elemento vi chiedo di valutarlo nelle vostre telefonate per dirci come la pensate. Due pesi e due misure è la maniera per venire a capo di liberarsi dalla giunta Crocetta a cui il PD stava stretta, malgrado lo stesso PD e pezzi del PD abbiano opinioni diverse in Sicilia? Ecco, ve lo chiedo perché da osservatore non ho alcuna pretesa di poterlo aver capito meglio di quanto voi che siete in Sicilia. Terza cosa, vado all'ospite. Perché stamattina, a prescindere dalla buriana che si è scatenata, mi aveva molto colpito l'apertura di un organo di informazione siciliano, il Quotidiano di Sicilia, che è un giornale online che si occupa di economia, finanza regionale, non solo regionale, e buttando l'occhio stamattina mi aveva molto colpito, mi era molto piaciuta l'apertura del giornale, perché il Quotidiano di Sicilia chiedeva stamattina di farla finita con la giunta Crocetta, non per quello che poi è successo in queste ore, cioè per l'intercettazione in cui Tutino, il professor Tutino, dice che l'ex assessore alla sanità, figlia di Borsellino, deve fare la stessa fine del padre senza che Crocetta dica una parola, ma numeri dell'economia e della gestione della giunta Crocetta alla mano per quello che riguarda l'economia della regione, il miglioramento che non c'è stato della condizione regionale e così via. Io vi richiamo solo qualche cifra per capire, che viene dall'ultimo aggiornamento dei conti e dell'economia siciliana presentato dalla Banca d'Italia a fine giugno del 2015. Vi ricordo solo che in questi ultimi due anni l'importo complessivo delle imposte locali è aumentato di 222 euro per la famiglia di tipologia A, cioè la più diffusa nelle rilevazioni della Banca d'Italia, cioè più del doppio della media italiana, in seguito alle aliquote massime, soprattutto sul prelievo immobiliare. In particolare l'imposta sui rifiuti è cresciuta in tutte le province: a Palermo più 73,9%, a Trapani più 61,9% e così via. Nel frattempo, per quello che riguarda la gestione dei debiti, il servizio del debito è cresciuto del 7,3% in media d'anno negli ultimi due anni. Il servizio sul debito pubblico in Sicilia contratto dalla regione siciliana, questa è una media di aumento degli oneri del debito che non ha riscontro in tutte le altre regioni italiane, a differenza di Lazio e Calabria. Per tutte le altre vengono battute dalla regione Sicilia. Per quello che riguarda l'accelerazione dei tempi di pagamento della regione Sicilia, non ci siamo per niente, perché la Banca d'Italia dice che a fine 2014 la media, per esempio, per i pagamenti delle forniture sanitarie era ancora superiore ai 9 mesi. E se andiamo a vedere i macro dati dell'economia regionale, certo quelli non attribuibili alla giunta regionale sola, però insomma stiamo parlando di una regione in cui la disoccupazione è al 23% e quella giovanile è quasi al 54%, e in cui i punti di PIL persi dal 2008 non sono 9% come a livello nazionale, ma il 15%. Ecco, allora, di fronte a questi dati stamattina il Quotidiano di Sicilia titolava: commissariare la regione per un anno, urge un bravo manager che tagli i privilegi. È la mia stessa tesi, perché io non credo, dopo questa cosa che è in corso a Crocetta, che la vera risposta alla drammaticità della mala gestione siciliana sia elezioni immediate. Credo che sarebbe più sano per tutti commissariare, cioè fare ciò che la politica in tutti questi anni ha promesso e non ha mantenuto, di fronte alle irregolarità patenti che dovunque sono nel bilancio di conto economico e patrimoniale della regione Sicilia. E lo dico a maggior tutela dei contribuenti siciliani, visto come sono stati aggravati in questi anni rispetto a quello che hanno avuto in cambio. Certo, questa è una mia opinione personale forte, ma a maggior ragione ho chiamato il fondatore e direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua, visto che stamattina lui sosteneva questo a prescindere dalla vicenda in corso. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Grazie a voi. Allora, innanzitutto, la sua opinione sulla vicenda Crocetta in corso per via dell'intercettazione. Vabbè, se è un episodio della situazione drammatica della Sicilia, dove c'è un'intera classe politica fatta da politicanti senza mestiere che occupa gli scranni unicamente per prendersi uno stipendio. Naturalmente, facendo così, non seguono l'interesse generale, ma ognuno l'interesse del proprio giardinetto. Se mi consenti, vorrei precisare che il Quotidiano di Sicilia non è un giornale, non è un quotidiano online, ma è un quotidiano cartaceo, Il Sole 24 Ore della Sicilia. Ecco, allora questa è colpa mia, perché io guardandolo solo online da anni credevo, questa è una gravissima colpa e la ringrazio di correggere. Sì, è fondato nel 79, quindi 36 anni, e con le sue quasi 24.000 copie vendute il sabato è il primo quotidiano economico e uno dei primi della Sicilia. E la ragione ancora del suo ottimo stato di salute è che noi facciamo inchieste basate su date e dati. Ne aveva poc'anzi citato uno che io vorrei sottolineare. La regione siciliana costa ai cittadini, ai 5 milioni di cittadini, 4.030 euro cada uno. La regione Lombardia costa ai propri cittadini 2.226 euro cada uno. Parliamo della Borsellino, è un'ottima persona, è un ottimo manager, però la sanità in Sicilia nel 2014 è costata 600 milioni in più del 2013, altro che tagli, altro che efficientamento dei servizi sanitari, altro che eliminazione di sprechi ed altre cose. Quindi è una questione di ordine generale. Poi dopo aggiungiamo per esempio che il sistema dei rifiuti ha accumulato debiti per 1,8 miliardi, che la formazione siciliana fasulla inesistente in 10 anni si è mangiata 3 miliardi, che i pensionati siciliani, per i quali la regione non versa i contributi perché gli dà l'assegno direttamente, costano oltre 600 milioni. E poi, come dato che sintetizza un po' tutto, la regione siciliana c'ha ben 27.000 dipendenti diretti e indiretti, per i quali spende oltre 1,5 miliardi. Faccio presente che la regione Lombardia ne ha invece circa 3.000. In Sicilia ci sono 1.767 dirigenti, uno ogni 8 dipendenti, e in Lombardia ce ne sono poco più di 200. E poi quando Crocetta parla di missione mi fa sorridere, per non dire altro, perché uno che prendeva fino a qualche tempo fa più di Obama 280.000 euro all'anno, poi si è ridotto un po' lo stipendio, ma ancora oggi ne prende oltre 230.000. E insomma, uno che prende questa cifra non può dire che stia facendo una missione. Aspetti, la interrompo per 60 secondi e poi le ridò subito la parola. Abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale e poi torniamo con Carlo Alberto Tregua, il fondatore e direttore del Quotidiano di Sicilia. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta. Direi che c'è una unanimità pressoché preoccupante nei vostri sms a favore del commissariamento, e devo dire non per questioni antropologiche, alcuni penserebbero che ecco qua, cioè il pubblico di leghista, no, perché molti richiamano i decenni di promesse non mantenute dal diverso colore politico delle giunte che si sono avvicendate in Sicilia, molti altri richiamano le anomalie particolari, chiamiamola così, insomma, dei partiti nazionali, ciascuno in Sicilia rispetto al resto e così via. E quindi di fronte ad alcune delle cifre effettivamente completamente fuori controllo e fuori media che ci ricordava Carlo Alberto Tregua, il direttore del Quotidiano di Sicilia, che stamattina chiedeva il commissariamento infatti della regione Sicilia per metterla a posto prima di andare a votare, molti di voi dicono sì, effettivamente non ci crede la maggioranza di voi, non ci credo nemmeno io ovviamente che avverrà, però vi ritrovate tutti nel comune giudizio. Sentiamo qualche telefonata e poi torniamo a farle commentare e a riprendere l'esame dei numeri della Sicilia anomali con il direttore del Quotidiano di Sicilia. Cominciamo da Marco, che chiama da Massa. Prego Marco. Sì, buonasera Giannino. Sull'analisi non c'è da aggiungere un bit a quello che avete detto sia lei che il direttore Tregua. Casomai l'unica cosa che si potrebbe dire è che questo è un paese che avrebbe bisogno di essere commissariato per tre quarti ormai, temo che se no finiremo molto male. Per quanto riguarda Crocetta è chiaro, unfit, inadatto a governare, perché la prima cosa che si richiede a un governante è il senso della capacità di assumersi le proprie responsabilità. Uno che ha dato le giustificazioni come le sue è un bambino scoperto a rubare la marmellata che dice non è vero, non sono stato io. Nel frattempo a dire non è vero è anche il legale del professor Tutino, che intanto è in custodia cautelare, che dice che il suo assistito non ha mai detto quelle frasi che però ci sono nei brogliacci delle intercettazioni. Lorenzo da Roma, come la pensa Lorenzo? Buonasera, telegrafico. Allora, il primo punto diciamo che è metodologico, nel senso che lei giustamente ha detto che l'uso delle intercettazioni sì, da parte della carta stampata lo ritiene disgustoso, però io rilevo che ci ha fatto i primi 10 minuti della trasmissione, cioè non c'è nessuna controprova. Questo l'ho detto anche nel caso delle intercettazioni e lo direi, lo ripeterei anche nel caso delle intercettazioni del senatore Anzolini, per rimanere alle più recenti. Certo. Questo già mi sembra un fatto abbastanza rilevante. La seconda, molto più importante anche per il minimo di esperienza diretta che ho di alcune figure apicali della pubblica amministrazione lavorando a Roma. Ma voi davvero credete che un sindaco piuttosto che un ministro possa riformare se non ha dalla sua parte i funzionari che sono interni al ministro? Cioè voi credete davvero che... La ringrazio perché è uno dei miei punti forti. Figuri, l'intera legislazione tributaria è appaltata ai vertici della pubblica amministrazione, delle agenzie tributarie, non alla politica. È proprio uno dei punti di fondo dell'Italia, questo che lei sta toccando, quindi si figuri. E infatti, però, attenzione, è molto più complicato per un politico che per un commissario, forse, cambiare queste cose. Anche per un commissario non è facile, però il commissario significa che c'è una gestione straordinaria per definizione dal punto di vista amministrativo. Per un politico è enormemente più complicato, come insegna Mafia Capitale, ma mica solo Mafia Capitale, cioè è dovunque un problema della pubblica amministrazione italiana, quello che ci richiama Lorenzo da Roma. Sentiamo ancora Roberto dalla provincia di Viterbo, prego Roberto. Sì, buonasera dottor Giannino. Senta, oggi ho sentito dal telegiornale che l'Unione Europea ci ha rifilato l'ennesima multa per i rifiuti di Napoli. E quando ci impone di commissariare la Sicilia? Aspetti, Roberto, sul punto della gestione dei rifiuti era uno dei punti appunto citati nell'editoriale del Quotidiano di Sicilia di oggi. È così, Tregua? Perché da anni che devono sistemare la faccenda, il buco è diventato di 1,8 miliardi, non riescono a sistemare, ma non solo la questione dei rifiuti passati, ma dei rifiuti futuri, perché la Sicilia sta diventando una discarica a cielo aperto, perché tutte le discariche via via si stanno riempiendo e non c'è più, tanto che si ipotizzava lì alla regione di mandare con le navi i rifiuti fuori dalla Sicilia perché non c'è più dove metterli. Ma non hanno preso quello che noi sosteniamo da molti anni in esame, la questione di creare le industrie energetiche a base di rifiuti per produrre ovviamente biogas, energia elettrica eccetera, come c'è in tutta Europa, come c'è nel nord Italia. E qui questa iniziativa non si vuole prendere, non si capisce perché, forse per favorire chi gestisce le discariche, forse ci sono altre ragioni. Ma tornando un attimo alla questione fondamentale, la regione nel 2014 ha fatto un buco nel bilancio di 1,8 miliardi, che aggiungendo a quelli precedenti fa un debito complessivo della regione, quindi a carico delle future generazioni, di quasi 7,9 miliardi. Chi li paga? Quando si pagano? Teniamo conto che tutte le addizionali regionali sono tutte al massimo. Esatto. Non si può esatto. Quindi c'è 15 punti in meno di PIL in 7 anni, la disoccupazione che ha detto lei poc'anzi, 23% più eccetera, quindi anche quest'anno. Ci crede lei al commissario, direttore? No, il commissario io dico che il commissario è una indispensabile necessità. Sono d'accordo. Ma non il commissario mi consenta, il commissario ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, che dice esatto. il Parlamento nomina 3 commissari esatto. e poi fra 3 mesi fa l'elezione, non risolve il problema. Bisogna commissariare ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta quando vi siano gravi violazioni di legge. Quindi io sono totalmente d'accordo con lei, perché dobbiamo usarlo quell'articolo della Costituzione di fronte a una mala gestio così evidente e che vive nei numeri, a danno e a costo dei siciliani attuali e futuri. Grazie al direttore Tregua, viva il Quotidiano di Sicilia, continuate su Radio 24, appuntamento con me domani.